Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Da bambina passavo le ore a fantasticare sul principe azzurro con cui sarei volata via e mi commuovevo per ogni piccola cosa. Oggi invece ho l'umorismo di un caterpillar e ho la testa così tanto per terra che mi dicono che non sono capace di sognare. Sono felicemente single e al solo pensiero di una storia d'amore mi viene l'orticaria. Sono Viola, in questo momento sono disoccupata, abito in Veneto, ho 32 anni. Io non avevo mai pensato, e ve lo giuro, non avevo mai pensato di dedicare una puntata a qualsiasi festa comandata che fosse, poi comandata da chi non si capisce mai bene, a parte forse per Natale. Per Natale forse abbiamo fatto qualcosa che più o meno parlava del Natale, perché siamo un pochettino cialtroni anche noi. Però mai e poi mai, da quando sono a Radio 24, ma anche prima, avevo pensato appunto di parlare di una cosa, di un tema che riguardasse il giorno del 14 di febbraio. E non l'avevamo fatto, vi giuro, neanche con Margherita, con Tiziano e tantomeno con Paolino Corleoni, non ci avevamo pensato al 14 febbraio come una data fondamentale, e non sto mettendo le mani avanti, però è successa una cosa che ci ha fatto un po' cambiare idea, nel senso che primo è sbagliato prendere le cose di petto ed essere contro semplicemente così per partito preso quanto si può essere a favore per partito preso. Sto parlando di San Valentino, ovviamente, per chi non l'avesse capito. Però è arrivato un messaggio, è arrivato sul profilo Facebook del programma circa una decina di giorni fa, che mi ha proprio, lo dico con l'entusiasmo che non è mio, mi ha proprio riempito di gioia, cioè mi ha fatto pensare, toh, guarda, ogni tanto serve a qualcosa quello che faccio, anche fosse solo far incontrare due persone che non si conoscono, nella fattispecie un ragazzo e una ragazza. Adesso vi spiegherò molto meglio com'è andata e lo spiegherò attraverso il racconto di Viola, che mi scrisse quel giorno e a cui io chiesi di scrivermi una storia da raccontare oggi. Quella storia doveva essere una storia a due. Doveva essere la storia sua e di un ragazzo, di quello che era il suo ragazzo. Poi però appunto le cose più o meno si sorpassano, fanno due giri, fanno tre giravolte e da che sei avanti improvvisamente ti trovi indietro. E quella storia non è più una storia e quindi a breve vi racconterò meglio com'è andata. Io però in tutto questo, appunto probabilmente per le mie manie di protagonismo, mi sono sentito prima diciamo la causa dell'innamoramento di due persone e poi a breve, pochi giorni fa, invece la causa della fine di questa storia. E oggi vorrei parlare solo di questa seconda parte, proprio per evitare di essere stucchevoli. 349-238-6666 oppure voi siete qui @radio24.it se siete mai stati, anche involontariamente e anche, anzi soprattutto se siete stati una parte non in causa, se siete stati esterni a una coppia e avete per qualsiasi motivo, inconsapevolmente o meno, fatto finire una storia che probabilmente doveva finire. 349-238-6666. Non vale come mi scrive Margherita: io mi ero innamorata del mio ex guardandolo accarezzare un'amica, sua ragazza prima di me. Avevo fatto la doppietta. Sì, devo dire che tu eri quasi più veloce di Viola e della storia che ci ha raccontato. Tant'è, la puntata di oggi è una puntata particolare. Primo, perché non era stata pensata. Poi perché era stata pensata in un altro modo. E poi perché all'ultimo momento è stata stravolta. Non ci avete capito niente? Guardate, quasi neanche io. Anche Alessandro Marcotulli, che arriva sempre in regia per vedere se le cose vanno bene, non stanno andando bene, Ale. Proprio per niente, perché è talmente intricata che la possiamo capire solo leggendola questa storia. Vi dirò solo una cosa: la storia di oggi è divisa in due. Sono sempre io a leggerla. Però la prima parte la leggerò come se fosse Viola, la seconda parte la leggerò come se fossi il ragazzo, che in questo caso si chiama Matteo. Ero affacciata a sbirciare la bacheca di un amico virtuale quando Facebook, nelle icone a lato, mi ha elencato tra gli amici in comune un nome e un volto che non avevo mai visto. Ho cliccato sulla foto e le informazioni di quel ragazzo pensando, beh, carino. Ma no, non avevo la minima idea di chi fosse. Qualche sera più tardi, un venerdì di febbraio, stavo raggiungendo delle amiche per un aperitivo e quando ho aperto la porta del bar, lui, quello delle foto su Facebook, mi stava venendo incontro. Mi è passato accanto, mi ha guardato velocemente e io non ho avuto dubbi, era proprio lui. E allora gli ho sorriso ed impulso l'ho fermato e l'ho fatto con una frase che sembrava veramente una scusa costruita a tavolino. E invece giuro, mi è riuscito così, senza pensarci. Mi basta sempre un battito di ciglia perché la pancia mi dica se sono o meno attratta da qualcuno. e avevo capito subito di non esserlo. Per carità, carino era carino, ma chissà cosa ci avevo trovato in quella foto. No, non era il mio tipo. Forse perché era biondo, o forse perché aveva dei modi buoni, quasi timidi. Comunque fosse, quello non era il mio tipo. E così come l'avevo abbordato, mi ero congedata. Era un venerdì sera qualsiasi. Le mie amiche finalmente uscivano senza mariti e c'era freddissimo. Mi sono truccata, ero contenta. Era un momento bello della mia vita. Perciò ora non so neanche bene perché, ma me lo trovo di nuovo davanti e siamo seduti in questo tavolino a pranzare sotto i portici. Comunque ordiniamo e parliamo, ma è tutto molto naturale, senza esitazioni o imbarazzi. Parliamo, ridiamo e ridiamo scoprendo di essere passati accanto innumerevoli volte prima di quella sera. Gli stessi locali, la stessa discoteca, università, le stesse amicizie. Eppure nessuno ci aveva mai fatto incontrare. Lo guardo meglio e intravedo che dietro allo sguardo buono c'è qualcosa che assomiglia molto a una canaglia. Lascio che si racconti, Dio mio, quanto parla questo. Ed un tratto capisco di trovarmi nella situazione ideale. Perché uno che, a quanto pare, ha almeno una donna per città, non potrà certo farmi sentire in colpa se il mio cuore è afono. Rimane comunque che non è il mio tipo, ma quando ho finito il pranzo mi chiede se mi va di prendere il caffè a casa sua, io accetto sorridendo. E poi passa qualche settimana e le cose cambiano. Mi sembra che lui stia rovinando tutto. Quello che avevamo già non era perfetto, no? No, lui è così abituato a sedurre e a vedere cadere le donne che io sono diventato una sfida, il giochino nuovo in cui lui deve recitare il ruolo dell'innamorato. Così, per evitare di parlare, ho aspettato che si addormentasse. E dopo avergli lasciato un messaggio su due post-it, sono scappata a casa sua. Ho scritto qualcosa che in nessun modo avrebbe potuto ricondurre a me, qualcosa che solo lui poteva capire. Due lettere, per dirgli no, non rovinare tutto per favore. Ma anche no, non cercavo né cerco una relazione, i patti erano chiari sin dall'inizio. Beh, è passato un anno da quella sera di febbraio in cui per la prima volta ci siamo incrociati all'entrata di un bar. E oggi abbiamo stretto un patto per arrivare fino a qui, per riuscire a smettere di scappare l'uno dall'altra. Well, I passed the wishing well and I threw my penny in. Said a prayer out up above that you will come my way again. Il brivido dei primi sguardi, il gioco della seduzione e la sfida di inventare ogni volta qualcosa di nuovo con cui attaccare bottone. Mi piacciono queste cose. È febbraio, un venerdì. Sono in un locale della mia città. Incrocio una ragazza che non ho mai visto, che mi fa una domanda che non ho mai sentito. Le rispondo di sì e ci scambiamo qualche parola. Mi diverte la sfrontatezza con cui lei ha fatto il primo passo. Una scusa assurda, inaspettata, che però ci ha permesso di cominciare a parlare. La guardo meglio. È carina, ma niente di più. Non è certo il colpo di fulmine che cerco, né il tipo di donna che mi toglie il fiato. Eppure, vedendola andar via, penso che c'è qualcosa in lei che potrebbe piacermi. La fermo ancora un istante e le dico: beh, che io mi chiamo Matteo, già lo sai, ma tu? Ah, scusa, io sono Viola, mi dice ridendo. E allora non so nemmeno bene come. Ci vediamo a pranzo qualche giorno dopo. E a un mese da quel pranzo, eccoci qui, a casa mia, sdraiati l'uno accanto all'altro. È notte fonda quando Viola scivola dal mio abbraccio pensando che io stia dormendo. Guardo il suo corpo nudo illuminato dalla luce che entra dalla finestra. C'è qualcosa in lei che mi tiene incollato, al punto che senza accorgermene, da un po' ho smesso di vedere le altre ragazze. Esce dalla mia stanza con i vestiti appallottolati in mano. Sento i suoi passi che si fermano all'entrata. L'ultima volta che mi sono chiesto se fossi di fronte a quella giusta è stato 2 mesi fa. E non capisco cosa ci sia di diverso con lei questa volta. Mi alzo. Esco dal letto. Poi con il caffè in mano torno un altro po' a dormire. Attraverso il corridoio e li vedo. Sono 2 piccoli post-it che spiccano dispettosi sulla lavagna appesa accanto alla porta. La porta da cui lei se n'è andata poche ore prima. Sono 2 post-it rosa. Su uno, in stampatello maiuscolo, c'è una lettera, è una N. Sull'altro ha disegnato un cerchio, ma non è un cerchio, è una lettera, è una O. N-O. No. Ho tanti lati, ho sempre sognato e poi sono sempre stata molto concreta. Con il tempo mi sono accorta che ogni volta le passioni mi portavano forse sul baratro della parte più vulnerabile di me. E quindi piano piano questa parte ha cominciato a tacere e sono diventata più dura, e rendermi conto che non ne ho voglia, che sto bene da sola. Erano due fredde anonime lettere in stampatello. No. Erano la risposta alle domande che le avevo fatto tra l'aperitivo, la cena e le altre volte poi a casa mia. Vieni via con me per questo fine settimana? No. Ti fermi a dormire con me stanotte? No. Puoi per favore fermarti un secondo finché non ho capito se sei quella giusta? No. Mi fa un po' ridere lei. Mi sembra che debba recitare il ruolo di indipendente senza sentimenti e quindi dice sempre no. Ed eccoci qua, è passato un anno da quella sera di febbraio in cui per la prima volta ci siamo incrociati all'entrata di un bar. Innamorarsi può sembrare facile. L'amore però penso sia tutta un'altra faccenda. Io e Viola continuiamo a parlare ogni sera, fino ad addormentarci in quello che ha sempre più la sagoma di un letto nostro. E continuiamo a ridere ogni mattina quando ci prepariamo il caffè, come ogni volta in cui, in mezzo a una discussione, uno dei due si accorge che l'altro sta esagerando. Nessuna delle persone che incontriamo nella nostra vita capita per caso. E sul come è arrivata, nel nostro caso, sembra che non ci saremmo mai incontrati, se non per quella frase fuori da quel bar. Ciao! Scusa, anche tu ascolti Matteo Caccia, vero? Anido d'ape o l'isca di pesce, facciamo una casetta tutta come ci va. Mettiamo il letto sul pavimento, che al mal di schiena ci pensiamo nell'aldilà. Prendiamo tutti gli accorgimenti, la testa a nord, le gambe 10 gradi a sud-est. Mettiamo un disco sul giradisco, baci in cucina, baci in sala, baci in garage. Ve lo dicevo prima, no? Che a parte che non avevo mai pensato in vita mia, e non avevamo pensato nemmeno per questa stagione di questo programma, di immaginare una puntata dedicata a questo giorno particolare, il 14 febbraio. E infatti questa non è una puntata dedicata a quel giorno. Solo che dieci giorni fa più o meno, adesso magari chiediamo a Viola se lo ricorda meglio di me, mi è arrivata una mail che mi aveva fatto sentire veramente bene. Per una volta ho detto, guarda, ogni tanto quello che faccio serve addirittura a qualcosa, serve a far conoscere le persone, nella fattispecie un uomo, una donna, un ragazzo e una ragazza. E poi le cose succedono in maniera sempre travolgente, la vita va più veloce di quello che ti immagini, e quindi un paio di giorni fa mi sono sentito immediatamente un imbecille, invece, perché quasi per causa mia, cioè per aver chiesto ai protagonisti di questa storia di raccontarmela per farci una puntata dedicata, questa cosa è crollata. Però lo chiedo con tutto il tatto possibile alla protagonista della storia, che è Viola. Pronto, Viola? Ciao. Ciao, come stai? Andiamo in metabolizzazione. Io, ecco, dicevo prima, mi sento un imbecille perché ho cominciato a dirti dai scrivimi questa storia bellissima, facciamo una puntata doppia, e poi evidentemente è successo qualcosa legato a questo dai scrivi una storia, che ha fatto sì che questa storia adesso non ci sia più. Ma ci siamo guardati negli occhi, eravamo sul divano, io avevo molto entusiasmo e ho visto che era un po' troppo rispetto al suo. E questa titubanza probabilmente ha fatto leva sulle insicurezze che già c'erano, e quindi piano piano io ho continuato a scrivere e ho visto lui sempre più distante. Senti, quindi un po' mi assolvi, posso non sentirmi così un cretino come mi sento? No, tu hai fatto una cosa bella quando ti ho scritto la prima volta, era proprio questo, il ascoltarti e probabilmente seguirti, c'è sempre un che di poesia nella trasmissione, e questo forse mi aveva dato lo slancio che poi mi ha permesso di fermarlo quella sera e chiedergli chi era. Senti, parliamo di te, Viola, così rimaniamo da questa parte del fiume. Tu hai 32 anni e dicevi che in questo momento non stai lavorando, però prima fuori onda mi avevi anche raccontato che in realtà tu hai una sorta di specializzazione, chiamiamola, cioè facevi delle cose prima di non avere lavoro. Che... Mi sono divertita tanto per anni in una scuola di teatro inglese che avevamo creato con un'amica, in cui in realtà c'erano 200 bambini quindi non proprio pochi, e abbiamo messo anche in scena Shakespeare, Romeo e Giulietta, e ci divertivamo a insegnare loro un po' a stare sul palco, un po' a cercare di migliorare la pronuncia inglese. Ma quindi era una scuola di teatro in lingua inglese per bambini? Sì, i bambini erano proprio della fascia della scuola primaria, quindi tra i 6 e i 10 anni. E alcuni talentosissimi, altri meno, però è sempre stato molto divertente, perché danno tanto, si divertono e ti fanno divertire. Senti, adesso l'esperienza è finita, per quale motivo? È finita perché in questo momento di crisi economica per l'universo mondo, il terzo settore è il primo che viene tagliato. Vabbè, certo, ovviamente le prime cose sono quelle e quindi, sì, e quindi... di cui si può fare a meno, o si pensa a meno di poter fare a meno. Senti, quindi tu però sei laureata in giurisprudenza. Sì. Però non hai in mente di fare l'avvocato. No, per niente, assolutamente non l'ho mai voluto fare, e spero adesso forse di riuscire a crescere verso il diritto internazionale, di andarmene un po' all'estero, a rimanere sempre con i bambini, ma quelli del terzo mondo. Senti, invece ti è mai capitato, visto che appunto in tutto questo io, probabilmente anche per una forma di mania di protagonismo, mi sento responsabile della fine di una relazione che non è la mia in questo caso, ti è mai capitato di essere tu la causa esterna della fine di una relazione? Ma devo dire che la cosa forse più vera da dire è che quando io ho conosciuto Matteo, tra le tante donne che aveva una più speciale, che si considerava la sua fidanzata. E che però piangeva molto, perché le era venuto il sospetto di non essere la sola. E si innescò per qualche settimana questo meccanismo strano, per cui un po' io ero amante, un po' ero amica. Sì, e quindi ho instillato un po' di ragionamenti e sensi di colpa tali per cui poi alla fine lui ha preso le forze e ha chiuso con questa ragazza. Ah, ok. Però in quel caso riparte in causa, diciamo. Io invece dicevo proprio quando esternamente uno in qualche modo causa la fine di una relazione. Io sono una pessima cognata, quindi... Ok. Okay, però ritengo davvero che i nostri amici, i nostri familiari ci conoscano molto bene, dovremmo ascoltarli quando vedono qualcosa. Senti, invece Viola, poi ti lascio andare, ti saluto con un augurio, mi raccomando, di stare su. Quindi stasera cosa si fa? Stasera mangio con il mio unico amore, che è mio figlio. Ah, beh, questo non lo sapevamo, scusami, che avevi un bambino. Sì, un bambino poco, perché ha 14 anni, quindi probabilmente... Ma scusami, ma perdonami, ma la tua storia mi sembra molto più interessante degli ultimi sviluppi, quindi in realtà... È bella intricata. Ok, allora facciamo così, io adesso mi fermo qua, poi tu mi hai scritto questa, di solito non chiedo di scrivere due storie alla stessa persona, però quando hai voglia e quando magari è sbollita questa cosa qua, mi racconti il resto della tua vita in un'altra storia. Sarà fatto. Viola, ti ringrazio moltissimo e stai su. Ciao, un abbraccio. Ciao, grazie, ciao. Un abbraccio a te. Adesso la borsa e poi Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Ci ha mandato due foto Viola, ma ce n'è solo una sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi siete qui. E Margherita, ti chiedo, questa o questa? Questa di qua? La destra? La sinistra? Questa qua? Ok. Allora vi descrivo l'altra, allora. Comunque sia, in entrambe le foto Viola è una ragazza molto bella, con i capelli biondi ricci. In quella che c'è sul sito si sta truccando, non sta guardando l'obiettivo, ovviamente. Sono belle le foto in cui le donne si truccano e non guardano mai nell'obiettivo, perché sembra che sia un attimo rubato alla loro vita privata. Poi chiaramente non è così, perché sanno che c'è un obiettivo alle loro spalle. Non ha nulla di triste in questa espressione Viola, evidentemente perché non è stata scattata oggi, ma ho la sensazione che tornerà ad essere più così che non come era oggi. 349-238-6666 oppure Voi siete qui @radio24.it. Ma attenzione, la vera grandissima novità di questo programma, per cui devo ringraziare Tiziano Bonini e Margherita Aina, è il live blogging su Twitter, che detto così sono tre parole che non hanno alcun senso. Semplicemente sul profilo Twitter del programma, che si chiama Voi siete qui, Margherita Aina si fa un mazzo così, rimanendo per tutto il tempo collegata e scrivendo, cioè twittando alcuni pezzi del programma. In questo momento ad esempio c'è la canzone che abbiamo ascoltato prima, che era Vieni a vivere di Michele Dente. Non si chiama Michele Dente, non so come si chiami, però avrà pure un nome sto ragazzo, non può chiamarsi solo Dente, no? Non lo sappiamo, solo Dente, perché è un po' indipendente, sarà per quello probabilmente, perché è un musicista indipendente, sarà, no? No, ma un po' anche chi se ne... si chiamerà quindi Independent. Di nome, e poi lo so, le battute brutte proprio non fa, cioè, hanno qualcosa di ossessivo per me, non riesco a farne a meno di dirle. Ci sono dei pezzi delle cose che dico, ci sono dei pezzi del racconto. L'hashtag, cioè l'argomento di discussione, è Voi siete qui, ma anche il profilo del programma su Twitter è Voi siete qui. Se volete seguirlo, trovate un po' quello che succede in diretta e soprattutto altro, magari le cose che non dico, come ad esempio i brani che mandiamo in onda. Io ringrazio quelli che mi scrivono e mi dicono: ma non è per niente una storia romantica. Non voleva essere una storia romantica, forse mi ero spiegato male all'inizio. Non voleva esserlo e non lo è stato. È semplicemente che per una volta mi sono sentito terribilmente coinvolto nella storia che era arrivata, e quindi mi sembrava carino raccontarla. Così come non è romantica la storia che mi ha dato Luigia. Luigia, che sembra un nome inventato, invece evidentemente no. Nel 2012 ci sono ancora delle ragazze, perché lei ha 28 anni, che si chiamano Luigia, quindi chiaramente non è colpa sua, è colpa di qualcuno che 28 anni fa ha deciso così per lei. Luigia mi scrive: io abito a Calcinate, provincia di Bergamo, e va a rinfoltire il grandissimo pubblico bergamasco di Voi siete qui. Ho 28 anni, come professione cerco di fare l'architetto, cerco tra parentesi con un punto esclamativo. Buona giornata e buon lavoro. E vabbè, qual è la storia di Luigia? La storia di Luigia praticamente ci ha anticipato, perché me l'ha mandata sulla mail. Semplicemente mi ha scritto ascoltando il podcast della puntata di ieri, cioè ascoltando il podcast che evidentemente sarà scaricata dal sito o da iTunes, ha sentito la parte finale della puntata di ieri, che era l'intro della puntata di oggi. E lei mi dice nella mail: guarda, ho esattamente capito qual è lo spirito della puntata di domani, allora non posso fare a meno di raccontarti la mia storia. Questa è la sua storia, che parla di qualcuno che si mette, si infila in una relazione. Questa però, devo dire, finisce bene. Me lo ricordo ancora come se fosse ieri, e invece sono già passati 13 anni. È il primo giorno di scuola, una nuova scuola, precisamente la terza superiore. Arrivo in questa classe e lo riconosco. Non poteva che essere lui, il famoso ragazzo di cui tutte le mie amiche che già frequentavano la scuola mi avevano sempre parlato. Penso sia stato un colpo di fulmine per me, ma lui era il solito ragazzo impossibile. Il primo intervallo di quel giorno mi ricordo ancora che con le nuove compagne si parlava solo di lui, e mi ero subito convinta quanto fosse raggiungibile. Lui, felicemente fidanzato, io così innamorata che accettavo pure di consigliarlo e accompagnarlo a comprare i regali di San Valentino, pur di stare con lui anche solo un pomeriggio e fantasticare che quei regali fossero per me. Alla fine, dopo 2 anni e mezzo, non ho più resistito. Un giorno partiamo per la classica gita della quinta superiore a Loré de Mar, chi non c'è andato in gita. E qualcosa è cambiato, o meglio, qualcosa ho cambiato. Complice l'alcol della sangria, quella sera ci siamo persi volontariamente per le vie della cittadina e ci siamo trovati su una panchina dove tutto è iniziato, anzi, dove ho fatto incominciare tutto. All'inizio non volevo ammetterlo a me stessa, ma io ero partita da Bergamo proprio con l'intenzione di far finire quella storia. E diciamo che ci sono riuscita in quell'intenzione. Me ne sono stata poi 6 mesi nell'ombra, mentre lui trovava il coraggio di lasciarla e io cercavo di confortarlo durante i nostri incontri clandestini. Come gli dico sempre, ho vinto, perché quei 6 lunghissimi mesi sono stati una vera battaglia. Però, 10 anni dopo, 10 anni dopo quella magnifica gita, io e lui ci sposiamo. Gli ho sempre fatto spendere così tanti soldi per i regali di San Valentino che lui ora lo odia e non mi merito più nemmeno un fiore o un cioccolatino. Ma sai cosa? Sono contenta così. Ciao, Luigia. In fondo, dentro a quella scorza da umbro che ha Tiziano Bonini, batte un cuore, il cuore di un innamorato, e quindi mette i Beatles il giorno di San Valentino. Ringrazio Giulietta che mi scrive su Facebook, e qualcuno che mi scrive invece l'SMS senza firmarsi, che mi dice che Dente si chiama Giuseppe Peveri o Peveri. Beh, Giuseppe, tirati su di morale. Sappi che c'è gente che si chiama Luigi ancora nel 2012, poteva andarti peggio. Tra l'altro qualcuno che non so chi sia, perché appunto non si firma, mi scrive: beh dai, Luigia è l'anagramma di Giulia. Ma non credo però, perché c'è una I in più. Giulia Luigia. Vabbè, insomma, 349-238-6666, vabbè, dai, io non, sinceramente non capisco tutta questa gratuità contro la festa degli innamorati. Chi lo vuole la festeggia, chi non la vuole no, no, mi sembra molto più semplice. Però prima di chiudere io vorrei leggere, e lo, guardate, questa la leggo veramente, la dedico tutta a Viola, che spero ci stia ancora ascoltando dopo aver fatto la chiacchierata di prima al telefono. La manda Francesca, ed è un passo che ha letto in un libro che si intitola Delle donne e dintorni. In pratica spiega perché l'anima gemella non esiste, e c'è una dimostrazione per assurdo che in teoria dovrebbe dimostrarlo. E dice: allora, in Italia, riferimento è l'Italia ma vale per tutti, in Italia vivono 60 milioni di persone che si suppongono equamente divise tra maschi e femmine. Il 75% degli italiani con età sopra i 45 anni è sposato o lo è stato, quindi è ritenuto di avere trovato l'anima gemella. Il 92% degli sposati ha scelto l'anima gemella fra le persone che vivevano nella propria città o in un raggio di 100 km. Ok, questo è il 92%. Conclusione: tutti gli uomini sposati hanno una fortuna pazzesca, una fortuna enorme che ha fatto loro incontrare l'anima gemella, unica al mondo in quasi 7 miliardi di persone e nell'universo proprio a pochi chilometri da casa. Allora tutte queste fortunatissime persone non avrebbero più problemi al mondo e basterebbe che giocassero al Super Enalotto una volta al mese per vincere le cifre necessarie e vivere felici. Così per il 25% dei non coniugati, cioè il restante, non esisterebbero problemi di lavoro perché ce ne sarebbe in abbondanza. Tutto il mondo sarebbe felice e perfetto, ma evidentemente non è così, quindi l'anima gemella non esiste. Vabbè, questo mi sembra sinceramente un cioè, a parte che è un po' complicato da seguire e poi mi sembra un po' una boiata, però ringrazio comunque Francesca per avermelo mandato, perché ogni contributo è sempre più ben accetto. Vi ricordo che c'è un profilo Twitter del programma, che voi siete qui. Vi ricordo che c'è un podcast da scaricare sia sul sito sia su iTunes gratuitamente in abbonamento le ultime 5 puntate. Ma vi ricordo anche che venerdì, a cominciare da giovedì in realtà, Radio 24 è alla BIT di Milano, perché è la radio ufficiale della borsa internazionale del turismo, non italiana. Borsa internazionale del turismo, ragazzi, cioè mi pare che facciamo le cose piccole, facciamo le cose in grandi. Venerdì invece noi siamo in diretta da là, ma non è aperta al pubblico se non gli addetti ai lavori, quindi se per caso lavorate in un'agenzia di viaggio, un tour operator, passate da lì e ci facciamo un saluto. Grazie a Tiziano Bonini, a Margherita Ina e a Paolino Corleoni. La storia di oggi era la storia di Viola e parlava di coppie, quella di domani è la storia di Cristiana e parla di parto. Mi ricordo che trascorsi quei giorni come in un sogno. Avevo una pancia enorme e mi guardavo intorno senza avere in realtà coscienza di cosa mi stesse accadendo. In più, quasi come se avesse capito tutto e volesse farmi un dispetto, questo bimbo proprio non ne voleva sapere di nascere. I giorni passavano, passavano e niente. Non accadeva nulla. Il ginecologo che mi aveva in cura mi faceva continui controlli. I risultati erano sempre gli stessi. Era tutto a posto, ma poi non succedeva nulla.